to take the bomb. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Ma buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Ore 10.32, iniziamo con giusto due minutini di ritardo questa nuova puntata di Fuji Comics, questa 18ª puntata, se non mi sbaglio con i conti. Insomma, benvenuti e benvenute, oppure bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Se non sapete cosa state ascoltando, io sono Rachele Copparoni e questo è Fuji Comics, il programma di Radio Città Fujiko, che va in onda tutti i mercoledì dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza, in cui si chiacchiera tantissimo, soprattutto io chiacchiero tantissimo, di fumetti, di graphic novel, di novità in uscita in questo grande mondo sia editoriale che non solo. Si parla di eventi della settimana qui a Bologna e tutte le fiere un po' in giro per l'Italia, sempre ovviamente di fumetti, e come sempre ci sarà anche un contributo esterno, un'intervista a un artista o un artista, sempre del mondo dei fumetti. Dicevamo 10:33, già passato un minuto di questo mercoledì, non so bene che giorno è oggi, adesso vado a guardare, mercoledì 19 febbraio, 18ª puntata, più o meno ci siamo, e partiamo anche subito con il ricordarvi quali sono un po' i contatti con cui appunto mandarci un sms, un messaggino tramite WhatsApp oppure Telegram al 333-180-9494. Mi raccomando, fateci sapere come state passando questo mercoledì mattina, e anche insomma andate a dare una sbirciatina al nostro sito www.radiocittafujiko.it, in cui potete trovare tutti i nostri articoli sia della redazione giornalistica che musicale che appunto culturale, e seguite anche la radio nelle varie pagine social, quindi Facebook, Instagram, e cercate ovviamente anche Fuji Comics sia su Facebook che su Instagram. Ma direi di partire subito innanzitutto con un po' di musica, e partiamo anche con una grande anticipazione del tema principale di questa puntata, e l'anticipazione viene proprio dalla musica che ci andremo ad ascoltare. Infatti stiamo per sentire Colapesce con Quando tutto diventò blu, e lo spoiler, l'anticipazione sta già nel titolo. Colapesce, lo pseudonimo di Lorenzo Urciullo, è un cantautore italiano, già leader del gruppo Albano Power, attivo con un alias fantastico che ve lo devo dire solo per questo, che è The Last Merendina, e faceva parte anche del trio Tempestine, e successivamente appunto nel 2010 ha lanciato il suo progetto da solista come appunto Colapesce. Questo nome tra l'altro è un po' particolare, sono andata un po' a vedere che cosa voleva dire, perché viene da delle leggende del sud Italia, ce ne sono tante tipologie diverse di leggende, quindi se siete curiosi magari andatele a cercare, c'è quella catanese, c'è quella palermitana, quella napoletana, quella siciliana, un po' in generale, insomma a seconda di che regione, che provincia sei, c'è una storia, una leggenda diversa dietro a questo nome. E quindi direi di andarci a sentire subito Colapesce con Quando tutto diventò blu. Yeah. Era con la pesce con Quando tutto diventò blu. Ma perché è un'anticipazione questa canzone con questo titolo? Perché oggi parleremo dell'ultima uscita di Alessandro Baronciani, fumettista italiano, fumettista marchigiano, e poi torneremo anche su questo punto delle Marche, appunto la nuova uscita di Quando tutto diventò blu, ripubblicato, anzi ristampato da Bao Publishing, perché inizialmente è uscito all'incirca una decina di anni fa per Black Velvet, una casa editrice che poi con il tempo è fallita, e appunto ora la Bao Publishing insieme a Alessandro Baronciani ha deciso di ristampare questo fantastico fumetto. Io giovedì scorso, quindi settimana scorsa, torniamo un po' indietro nel tempo, sono stata ospite di Fujiko Factory, un programma sempre in onda su Radio Città Fujiko tutti i pomeriggi dalle 3 alle 5, e insieme alle ragazze, a Lucri e Benny, ho avuto il piacere e l'onore di intervistare Alessandro Baronciani e fargli qualche domanda sia sul suo fumetto Quando tutto diventò blu, ma soprattutto anche sul suo concerto a fumetti, perché la presentazione di questa riedizione di Quando tutto diventò blu è diciamo un po' particolare, perché appunto il fumetto viene presentato anche grazie a dei concerti live, e saranno proprio le canzoni di questo progetto, di questo concerto a fumetti, che ci accompagneranno, che saranno le protagoniste della playlist di oggi. E quindi ovviamente non poteva mancare Cola Pesce, che è, come poi sentiremo nell'intervista ad Alessandro Baronciani, che è un amico innanzitutto, prima che un collaboratore appunto di Alessandro Baronciani, e ha scritto questa canzone Quando tutto diventò blu proprio ispirandosi a questo fumetto. Ovviamente all'interno della puntata di oggi non mancherà il consiglio di lettura della settimana, e oggi vi parlerò, non so perché io non l'abbia mai fatto prima, ma oggi vi parlerò di una delle mie fumettiste italiane preferite, che è Vanna Vinci, una grandissima artista, e quindi vi consiglierò uno dei suoi ultimi fumetti in uscita, che parla della grande soprano Maria Callas. Quindi in questa prima mezz'ora ci sarà appunto il consiglio di lettura della settimana, l'intervista poi ad Alessandro Baronciani, e ovviamente si parlerà come sempre di novità, sia di Comic Con, quindi del Salone del Fumetto di Napoli, che ci sarà dal 30 aprile al 3 maggio. Escono piano piano sempre più novità riguardo il Comic Con di quest'anno. Si parlerà anche di Parasite, il film che ha vinto appunto l'Oscar recentemente, film sudcoreano che forse riuscirò ad andare a vedere questa sera al cinema. Nel frattempo sono uscite anche delle anticipazioni anticipazioni riguardo un fumetto che parlerà proprio di Parasite, e infine parleremo anche un po' di coronavirus, perché penso che il fumetto possa essere un modo per parlare anche di argomenti, di tematiche più che attuali, contemporanee. Quindi andremo un po' a vedere come due artisti, uno malese e uno cinese, hanno interpretato, diciamo, questa grande epidemia del coronavirus. E come sempre nell'ultima mezz'ora invece si parlerà di eventi, quindi nella nostra città, nella nostra Bologna, in questa settimana quali eventi ci saranno che riguardano appunto il mondo dei fumetti e delle graphic novel. E questo era un po' il menù della settimana, sì, della settimana, il menù della puntata di oggi. E noi nel frattempo continuiamo con la musica e continuiamo sempre con le canzoni del progetto del concerto a fumetti di Quando tutto diventò blu. Un altro dei protagonisti di appunto questo concerto sono i Giardini di Miró, gruppo musicale rock italiano proveniente dalla cittadina di Cavriago in provincia di Reggio Emilia, quindi rimaniamo sempre un po' qua in zona. La formazione comprende Giucca Reverberi, Corrado Nuccini, Luca Di Mira, Mirko Venturelli, Emanuele Reverberi, e in batteria ha cambiato, diciamo, un po' di artisti, e dal 2013 in poi troviamo Lorenzo Cattalani. Ci andiamo a sentire i Giardini di Miró con Self Help. loro erano i Giardini di Miro con Self Help, ma siamo già arrivati incredibilmente a uno dei miei momenti preferiti di queste due ore di diretta su Radio Città Fujiko, cioè il momento del consiglio di lettura della settimana. Quest'oggi sarò io e non un artista presente, diciamo, nelle varie puntate di Fujicomics a darvi un consiglio di lettura che ovviamente ha a che fare con i fumetti, e oggi vi parlerò veramente di una delle mie artiste preferite nel panorama italiano. Quindi facciamo partire subito la sigla e torniamo per parlare di Vanna Vinci con Maria Callas. Sigla. Il consiglio della settimana. Eccoci qua, come anticipato, appunto parliamo di Maria Callas e Vanna Vinci. Allora, innanzitutto, Vanna Vinci chi è? Vanna Vinci è una fumettista e illustratrice italiana, cagliaritana, sarda per la precisione, è nata appunto a Cagliari nel 1964 e lavora nel mondo del fumetto dagli anni 90. Da allora ha pubblicato le sue storie per tantissime case editrici, dalla Bao Publishing, Lizard, Anset, per la Feltrinelli, appunto Maria Callas, e tantissime altre case editrici. Ha vinto anche numerosi premi, fra cui lo Yellow Kid nel 99, il Gran Guinigi nel 2015, il premio che si dà appunto al Luca Comics and Games, al Romix nel 2001, insomma la lista è lunga, l'ho un po' accorciata. Vive e lavora tra l'altro tra Milano e la nostra Bologna, infatti se andate ai suoi firmacopie, comunque alle sue presentazioni di fumetto, noterete che ha un forte accento sardo che le è rimasto appunto in quanto cagliaritana, che ogni tanto mischia un po' con del dialetto bolognese, viene fuori veramente una combo così divertente. Comunque siamo qui per parlare di Maria Callas. Diciamo che io conoscevo poco il personaggio di Maria Callas, e Vanna Vinci nel suo fumetto, nella sua biographic novel, mi ha aiutata a conoscerlo meglio, ma da un punto di vista veramente più profondo. Infatti Vanna Vinci diciamo che organizza un racconto non tanto sull'aspetto iconico del personaggio, che ovviamente non poteva mancare perché sarebbe assurdo non inserirlo, ma la sua narrazione ha un focus diverso, incentrato più che altro sul lato umano, sul lato della donna che stava dietro appunto al personaggio, quindi a tutte le sue sfumature, determinazioni, debolezze, sogni, tantissimi desideri che aveva. E una delle cose che rende meglio è il conflitto che ha Maria Callas tra la sua parte che chiama Maria e quella che chiama Callas. Quindi da una parte l'impegno, la dedizione, il lavoro, tutte le rinunce fatte per amore dell'arte, che è appunto la parte Callas, diciamo così, e dall'altra parte la parte Maria, che è la parte più fragile, più passionale, più sognante. Quindi un po' queste due donne che si scontrano al suo interno in questo grande personaggio, questa grande soprana che ha fatto un po' la storia della musica italiana, ma non solo. Si racconta tanto della sua vita, si racconta del suo sovrappeso, dei suoi problemi legati proprio alla percezione del suo aspetto fisico, della sua madre molto egoista, molto ingombrante all'interno della sua vita. Si parla ovviamente anche appunto della leggenda, del personaggio iconico che era. Si parla anche della trasformazione fisica e degli amori che l'hanno circondata e l'hanno anche un po' tormentata nel corso della sua vita. E sto parlando Meneghini, Pasolini, Visconti, ma soprattutto, più di tutti questi amori, quello che sicuramente l'ha influenzato di più, che è Aristotele Onassis. Si parla anche dei successi avuti ovviamente sul palco, dall'inaugurazione dell'Opera di Roma, il disastro della Norma, quando rimase senza voce e abbandonò il palco nel 58. Insomma, veramente si ripercorre tutta la vita di questa grandissima artista, e si ripercorre anche in un modo un po' particolare, perché Vanna Vinci dà un'impostazione narrativa come se seguisse la struttura di una tragedia greca. Quindi c'è un prologo, un parodo, tutti i vari gli episodi, e tramite questa sorta di appunto ricostruzione di una tragedia greca per raccontare la storia, si narra appunto tutta la vita, la grande vita veramente assurda di Maria Callas. E devo dire che, nonostante sia appunto un fumetto biografico, una biographic novel, che spesso possono essere un pochino pesanti per chi non è tanto amante o conoscitore del personaggio, come in questo caso appunto Maria Callas, devo dire che in realtà il problema non si pone in questo caso, perché non ci si annoia veramente mai leggendo questo fumetto, e anzi si conoscono delle parti poco note appunto di un personaggio così come Maria Callas. Come vi dicevo prima, Maria Callas, scritto da Vanna Vinci, è l'edizione di Feltrinelli Comics. È un'edizione anche in questo caso curatissima, con un cartonato a colori, una sovracopertina che rende molto molto elegante, che valorizza veramente ancora di più l'opera in sé. E che dirvi, io oltre a consigliarvi di leggere proprio il fumetto, forse qualsiasi fumetto di Vanna Vinci, ma magari ne parleremo in altri consigli di lettura, vi consiglio proprio anche di andarla a vedere in una sua presentazione, perché spiega ancora meglio come rende possibile il percorso fatto del personaggio all'interno appunto del suo fumetto, come decide di raccontare la storia soprattutto di donne, di tante donne che hanno avuto una vita difficile ma che l'hanno affrontata in maniera molto molto coraggiosa. E questo era appunto il mio consiglio di lettura, Vanna Vinci con Maria Callas, pubblicato da Feltrinelli Comics. Ma io direi di proseguire con ancora un pochino di musica prima di finire in pubblicità, e ovviamente prosegue il nostro viaggio all'interno del concerto fumetti di Quando tutto diventò blu. Un altro dei protagonisti appunto di questo live painting, chiamiamolo così, sono i Gomma, che sono Ilaria, Giovanni, Matteo e Paolo, e suonano del post-punk un po' cupo ed emotivo. Nascono in provincia di Caserta a inizio 2016 e in pochi mesi registrano e pubblicano un disco che si chiama Tosca, il risultato delle loro vite e delle loro contaminazioni musicali, cinematografiche e letterarie. Un esordio che vuole offrire un punto di vista genuino e istintivo sul male d'essere contemporaneo, elargendo un po' storie da periferia dell'anima. A novembre 2017 pubblicano Vacanza, un EP di intermezzo prodotto dalla Red Bull Studio, fatto di 4 piccoli quadretti di rapporti interpersonali concepiti durante le varie pause dal lungo tour, in quel lasso di tempo che i Gomma definiscono vita vera. In seguito la band si prenderà una lunga pausa, lontano un po' dai palchi e dal pubblico, apparendo solo in qualche situazione importante come lo Sjitet Festival, scusate l'ho pronunciato malissimo, comunque il festival che si tiene ogni anno in Ungheria. Dopo appunto una lunga gestazione, un lungo periodo lontano un po' dalle scene, decidono di fare Sacrosanto, il loro secondo album in studio, che vede finalmente luce a gennaio 2019, dopo essere stato anticipato dai singoli Verme, Fantasma e Tamburo. E ora ci andiamo a ascoltare appunto i Gomma con Vicolo Spino. Torniamo belli carichi in diretta su Radio Città Fujiko. Qua in redazione è scoppiato anche il balletto dopo aver ascoltato Blue Monday, singolo del grandissimo gruppo musicale britannico New Order, pubblicato originariamente il 7 marzo 1983 dalla Factory Records come unico estratto dal loro secondo album in studio Power, Corruption and Lies. Questo è sicuramente in assoluto uno dei loro brani più celebri, più famosi, divenuto veramente un vero e proprio classico della scena dance, non solo in Italia, insomma un po' dappertutto nel mondo, nella scena dance mondiale. Tra l'altro ho scoperto anche questa curiosità, che i New Order hanno dichiarato di aver scritto questa canzone Blue Monday pensando alla loro delusione data dal fatto che il pubblico durante i loro concerti non avesse mai chiesto il bis. La canzone era stata concepita infatti come un semplice partner pattern rimato che avrebbe concesso loro di ritornare sul palco, di riaccendere tutti quanti gli strumenti eccetera e lasciare appunto che la gente ballasse. Però mentre stavano scrivendo questo pezzo il pezzo si è evoluto nel corso del tempo, è diventato un progetto più complesso che li ha convinti a trasformarlo in un vero e proprio singolo discografico. E curiosamente durante le loro esibizioni dal vivo, nonostante tutto il successo che ottenne, continuò a non essere eseguito soltanto come bis, quindi sono destinati a non avere il bis richiesto sul palco, poveri New Order. E quale altra canzone se non questa ci poteva introdurre al meglio a parlare di Alessandro Baronciani con Quando tutto diventò blu? Perché appunto il titolo della canzone è Blue Monday ed è proprio durante il Blue Monday, quindi il lunedì blu, che è il lunedì triste dell'anno, che è il 20 gennaio, che è stato il 20 gennaio, Alessandro Baronciani ha presentato appunto la ristampa del suo nuovo fumetto Quando tutto diventò blu. Ristampa perché appunto, come dicevo prima, in realtà questo fumetto era già stato stampato per Black Velvet, ma ora Alessandro Baronciani insieme alla Bau Publishing ha deciso di riomaggiarci con delle nuove copie. E andiamo un po' a presentare Alessandro Baronciani, fumettista, illustratore, art director, grafico e anche musicista. Nato a Pesaro, come dicevamo siamo entrambi marchigiani, ma in realtà lui è milanese d'adozione. Ha pubblicato una storia a fumetti per Black Velvet, in cui racconta delle sue prime esperienze di autoproduzioni scritte, e poi appunto ha pubblicato Quando tutto diventò blu e Le ragazze nello studio di Munari, entrambi ristampati da Pau Publishing in edizione rimasterizzata. La collaborazione con la casa editrice milanese nasce già nel 2013 con la pubblicazione di Raccolta 1992-2012 e continua nel 2015 con La distanza, un romanzo grafico scritto insieme a Cola Pesce, che abbiamo appena ascoltato prima come prima canzone di questa playlist di due ore di diretta su Radio Città Fujiko. Nel 2016 Alessandro Baronciani pubblica Come svanire completamente, la collaborazione con Bau Publishing continua. Nel 2017 è l'anno della riedizione di Le ragazze nello studio di Murari, mentre il 2018 vede la pubblicazione del romanzo grafico a tinte noir Negativa. E appunto ora nel 2020, come abbiamo detto il 20 gennaio, era appena scattato il 2020, è riuscito con la ristampa di uno dei suoi classici più amati, che è Quando tutto diventò blu. Questa graphic novel cult di Alessandro Baronciani diventa appunto un concerto a fumetti con Saner, il Project Festival targato Arci Emilia Romagna. Lo spettacolo inedito con disegni e musica live, che si chiama appunto Quando tutto diventò blu, concerto a fumetti, è stato creato da Alessandro Baronciani insieme a Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e vedrà sul palco anche Daniele Rossi al violoncello e avrà come voci Ilaria Formisano dei Gomma e Erskine, tutte artiste che nel corso di queste due ore di diretta appunto andremo ad ascoltare insieme. A ogni data ci saranno ospiti a sorpresa, tra i nomi più importanti dell'indie al femminile, che interpreteranno pezzi originali scritti per il concerto disegnato e altri pezzi dal loro repertorio. Il tour toccherà un po' tutti gli arci del territorio emiliano, quindi insomma intorno a noi, e tra l'altro sarà proprio anche a Bologna il 15 marzo al Mercato Sonato, quindi attendiamo con ansia e trepidazione il 15 marzo. Come vi dicevo prima, ma io sono stata ospite di Fujiko Factory la settimana scorsa, insieme a Lucri e Benny abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di intervistare Alessandro Baronciani, quindi ora ci andiamo a riascoltare l'intervista che è andata in onda appunto giovedì su Fujiko Factory. Ho cominciato a raccontare il progetto a Corrado e abbiamo capito che forse un autore, un cantante sarebbe stato bello coinvolgerne di più, e poi a un certo punto abbiamo deciso di coinvolgere soltanto autrici femminili. Abbiamo cercato, è stato difficilissimo perché ovviamente non è che inviti delle persone a suonare in un concerto, inviti delle persone a suonare mentre io disegno, certo, e racconto la storia del libro, quindi un po' di persone non hanno proprio capito niente, un po' di persone non hanno voluto partecipare, e invece tutte quelle che vedi sul palco sono tutte le persone che sono rimaste entusiaste del progetto. Mi piaceva che si parlasse anche di un tema un po' difficile, e tra l'altro è anche stato molto divertente pensare di fare uno spettacolo praticamente sugli attacchi di panico. Ecco, infatti, ma come è nata l'idea di questo concerto a fumetti? L'idea è nata con Corrado, che mi ha tirato in mezzo in questo progetto che si chiama Sooner, e all'inizio lui era curioso perché aveva visto quello che avevo fatto d'estate al Misfest a Cattolica, e il Misfest è uno dei festival principali, forse il più bel festival di cultura giallo che ci sia in Italia, è storico, cioè oltre 60 edizioni, 70 edizioni così, è più vecchio di Sanremo secondo me. E mi piaceva tantissimo aver provato, lì avevo realizzato uno spettacolo con Carlo Lucarelli che si chiamava Negativa. Negativa è il mio penultimo fumetto ed è una storia thriller horror. Loro hanno messo il Misfest, ha messo Carlo Lucarelli perché sono molto amici e lui è amico del festival. Io ho messo Colapesce, che è un amico mio e ci vogliamo tanto bene, e quindi abbiamo realizzato una opera unica durante l'estate di questo libro fumetti che si chiama Negativa, che è un horror, un po' più un noir più che un horror in effetti. E da lì è nata l'idea di provare, dato che Bao sarebbe andata alle stampe con questa nuova edizione di Quando tutto diventa blu, uscita il Blue Monday, che è la canzone dei New Order, e quindi a settembre ci abbiamo pensato, ma perché non proviamo a fare uno spettacolo che parla di attacchi di panico, che parla come la storia del libro che uscirà a breve. Era una bellissima sfida, Corrado ha accettato, e non solo a darci Emilia Romagna è piaciuto tantissimo, quindi abbiamo cominciato a provare a trovare le persone in giro, abbiamo cominciato a pensare come realizzarlo. Per l'occasione, in punto, abbiamo anche realizzato una colonna sonora, cioè abbiamo scritto delle canzoni nuove che suoneremo durante lo spettacolo. Wow, ma pazzesco! Quindi se le vuoi ascoltare dovresti venire soltanto lì, perché non ci sono in giro ancora. Ma io canzoni. Correrò, perché sono veramente curiosa di questo spettacolo. Poi ho visto insomma qualche video, qualche storia. Beh, di quello che state organizzando. Prima data a Cariago, quindi dai, una macchinata. Ma sì, poi sicuramente saremo a Bologna. Ma hai visto, no, che prima abbiamo messo comunque il brano di Colapesce, Quando tutto diventò blu, e io infatti ti volevo chiedere, perché l'ho scoperto oggi per caso, non ci avevo mai fatto caso effettivamente, che lui effettivamente ha un brano che si chiama così, ma come è andata questa cosa? Cosa è successo? È successo che Lorenzo, allora pensa, io ero andato a Roma a presentare 10 anni fa e basta, Quando tutto diventò blu, a casa, e avevo dormito a casa di Giulia Blasi e Emiliano Colasanti, che sono miei amici che mi hanno ospitato per la serata che avevamo organizzato, e poi ovviamente lasciai una copia firmata e dedicata a loro. 5 anni più tardi, Colapesce, che era nella stessa casa a dormire a casa di Emiliano, perché Emiliano è anche uno dei patron della 42 Records, stavano per finire di registrare il primo disco di Lorenzo, e questa canzone che si chiamava La Quota, ed Emiliano ha passato a Lorenzo Quando tutto diventò blu, perché secondo lui, ed effettivamente è vero, il testo sembrava esattamente la storia del libro, ed è vero, e quindi Lorenzo ha voluto dedicare la sua canzone al titolo del mio libro. E a me io l'ho scoperto soltanto quando comprai il disco, perché lessi un'intervista dove lui ne parlava, ma non lo sapevo neanche io. Ho letto proprio il titolo, Quando tutto diventò blu, su una recensione su Rumore, mettere queste 4 parole tutte insieme sembra proprio il titolo, ed effettivamente era il titolo. Quindi è diventato una cosa che poi ci ha permesso di conoscerci, ci ha permesso di fare un viaggio insieme e ci ha permesso anche di fare il concerto disegnato. So I say, lucky to have you coming back to me. I say this every day. Love me like a prickly pear. We still have plenty more to share. A proposito appunto di fumetti, di disegni, parliamo un po' di quando tutto diventò blu, perché come dicevi tu prima è in realtà una ristampa, perché è stato pubblicato ormai un po' di anni fa per Black Velvet e ora hai deciso invece di ristamparlo insieme alla Bao Publishing. E ti volevo dirò di più, adesso sì è una ristampa, prima era solo una nuova edizione, ma lo possiamo dire adesso in radio. La prima tiratura è finita neanche in un giro di 20 giorni e quindi stiamo andando in ristampa con questo libro e adesso si può dire che è una ristampa, prima si diceva che era solo una nuova edizione. Esatto, infatti ora ufficialmente allora una ristampa, e ti volevo chiedere proprio perché hai deciso di ristamparlo ora e di fare una nuova edizione, e se c'è anche qualcosa di nuovo rispetto a quella diciamo originale che avevi pubblicato appunto con Black Velvet. Questo libro, in teoria i libri sono belli, funzionano quando vengono ristampati, vuol dire che il libro è piaciuto, che quando tu l'hai comprato ne hai parlato bene a un'altra persona e quindi questa persona è andata a comprarlo nuovamente. Vuol dire, quando si scrive un libro, un po' come parlavo prima di Goku, sei in un tavolo da solo, esperimenti, cerchi di raccontarti una storia, ma non sai se questa storia sarà compresa, sarà capita, piacerà alla gente. E invece quando viene ristampato, vuol dire, quando c'è interesse su questo libro, vuol dire che questo libro ha segnato comunque la persona che l'ha letto. Ha avuto delle vicissitudini un po' lunghe, perché quando Black Velvet fallì questi diritti finirono in mano ad altri editori e quindi abbiamo dovuto aspettare il termine naturale del contratto per poterlo ristampare, ma Bao era già interessata a tempo a riportare sia Quando tutto diventò blu sia Le ragazze non sono di Munari in libreria. Io per primo e anche Bao abbiamo sempre pensato che comunque, essendo stato un libro già editato, non avrebbe avuto così tanta forza, e invece probabilmente perché il tema trattato è ancora così attuale e probabilmente il tempo che non era più in libreria, io sono rimasto veramente felice di sapere che tutta la tiratura è finita neanche 15 giorni, perché il 23 di gennaio era in libreria e questa notizia era del 6 febbraio, quindi sono molto contento. Io l'ho acquistato e tra l'altro sono venuta anche al tuo firmacopie che hai fatto al Modo Info Shop qua a Bologna, e sono una delle ragazze che ha alzato la mano perché sono marchigiana anch'io, di Senigallia, vicino Ancona. Esatto, e infatti ti volevo chiedere proprio come mai la scelta di ambientare il fumetto, perché insomma un altro protagonista del fumetto è proprio il mare, il colore blu di cui appunto è stampato tutte le intere pagine del fumetto. Insomma, perché hai scelto il mare, soprattutto il mare della tua origine, della tua provenienza, quindi nelle Marche, perché anche tu appunto sei marchigiano? Sì, io sono di un posto un po' più in su di Ancona. Eh sì, in realtà sei di Pesaro. Esatto, ma non piace nessun marchigiano, nessun romagnolo. Sono di Pesaro e il nostro mare ha quella... è veramente strano, perché è profondo, e poi mi piaceva Ancona come luogo strano, un po' solitario. In nessuna canzone di indie parlano mai di Ancona, pensa 10 anni fa quanto poteva essere trend Ancona. In realtà, Ancona è un posto stranissimo, sì. Dove i treni passano quasi a filo d'acqua, le sì. Navi arrivano quasi a filo d'acqua vicino al treno, e poi subito dopo la città dietro c'è una parte fantastica che è tutto il Conero, dove non so se qualcuno di... magari mandateci dei messaggi se siete stati al Conero, alla spiaggia delle Due Sorelle, sono bellissimi, meravigliose. una vacanza vale la pena passarla e vedere il Conero. Assolutamente, e quindi, confermo. Mezzavalle, ragazzi, stiamo parlando di posti fantastici. Bellissimo. Per portare a spasso anche il cane nelle serate tennessee d'inverno. Ecco, facciamo un po' di promozione alle Marche, che vengono sempre così trattate male come ultima regione d'Italia, invece no, sono bellissime, diciamolo. Quindi mi è piaciuto tantissimo pensare che il mare fosse una cosa molto simbolica, fosse trattato in maniera simbolica, quindi dentro il mare, un po' nel profondo del mare, noi ci buttiamo tutte le cose che non vogliamo vedere, alla Freud. È molto freudiana questa cosa, però noi ci buttiamo tutte le cose che non vogliamo, e infatti ogni tanto queste cose, quelle mareggiate, ritornano sulla spiaggia. Mi piaceva tantissimo questa cosa di legare le cose che non vogliamo dirci, le cose che rimangono in silenzio dentro noi stessi nel profondo del mare. E il libro inizia nel profondo del mare, e la protagonista è lì che guarda questo abisso, e in questo abisso blu vede tutte le sue paure dormienti. E questa è una delle cause che poi scatenerà tutta la storia, che a tutti gli effetti è per me una storia d'avventura, come poteva essere una storia di Tex o appunto di Dragon Ball. You were in the pocket of my dreams. I'm wearing flowers, it doesn't feel to be a part of me and my jeans. You're taking care of what you wear, and all the rainy days we shared, put me in your head or in your bed. But I've got a new pair of shoes in which I'm leaving. I knew, I knew. You were warm and I feel better, matching all my colors with yours. I will catch you in my closet. You remember that you cursed it. I will catch your body's angles in the wrinkles of my blankets. But I got a new pair of shoes. Infatti volevamo proprio arrivare alla protagonista, che è Chiara, che la stavi raccontando, insomma, come inizia il fumetto. Io ti volevo chiedere che consiglio daresti a chi si sente come Chiara, perché credo che un po' tutti ci possiamo immedesimare in Chiara, e non so, hai qualche consiglio? Chiara darebbe qualche consiglio a noi? Non lo so, però posso dirti che questo libro è un libro per quelli che non capiscono Chiara, più che per quelli come me che non hanno sempre sentito parlare di attacchi di panico e in un certo senso non li hanno mai avuti. Io penso di non averli mai avuti. L'unica volta che penso di averli avuti è stato di ritorno dall'ospedale dopo un'operazione. È una cosa devastante, e sì, e capirli è quasi impossibile, debilitante anche per le persone che non riescono a farsi capire, comprendere, e anche capire la malattia stessa è un po' un problema. E il messaggio più bello di tutti è stato forse di una ragazza che mi ha scritto dicendomi che il suo fidanzato era andato a comprare questo libro perché mi aveva sentito la radio, e lui aveva pensato che probabilmente con questo libro avrebbe capito di più quello che soffriva la propria fidanzata. E queste cose qui sono le cose che mi piacciono della lettura dei libri, soprattutto a fumetti. Possono parlare di tutti i fumetti, sono i libri con dentro le immagini. Quindi, beh, che è un bellissimo in realtà consiglio, perché mi provo a immedesimare in questa storia. Effettivamente, quando hai qualcuno che te la sa raccontare, soprattutto in immagini, con parole, forse si può far capire come si sente Chiara, come ci sentiamo in realtà tanti di noi, mi metto dentro io in primis, e quindi quando l'arte riesce a trasmettere queste cose, secondo me è la ricchezza più grande. Sì, penso che l'arte sembra qualcosa di una parola grande. Io quando immagino l'arte mi immagino sempre le persone che fanno i disegni astratti all'Accademia. Aspetta, che uno dei, una volta intervista a Muñoz, che è uno dei lumi tutelari del fumetto argentino, diceva che lui aveva iniziato in Accademia, solo che in Accademia si faceva tutta ricerca astratta o informale, e lui invece gli piaceva disegnare il corpo, gli piaceva disegnare la figura umana. E a un certo punto tutti gli amici che come lui facevano l'Accademia e continuavano a disegnare realistico tra virgolette, hanno deciso tutti di buttarsi nei fumetti, perché era l'unico modo per poter continuare a disegnare la figura umana e fargli fare delle cose e fargli fare un racconto, fargli raccontare una storia. E questo secondo me è molto bello, perché effettivamente l'arte molte volte è quella cosa che sta nelle piazze sotto forma di fontana e nessuno si chiede mai che cosa veramente c'è dietro, ti piace e basta. Invece un racconto fumetti è una cosa immersiva, ci entri dentro e ti racconto una storia. Questa è una cosa molto fantastica, bella, sì. Fantastica. Complimenti Alessandro comunque per grazie sempre i tuoi lavori, come descrivi sempre queste figure femminili e insomma queste problematiche anche così a volte difficili da raccontare, quindi grazie. Ci provo. E noi ricordiamo comunque le date dove si può venire ad assistere a Quando tutto diventò blu, questo appunto concerto a fumetti, la data di Ferrara che verrà recuperata, ma la prima invece ufficiale che sarà il 16 febbraio a Cavriago, domenica. Poi arriverete a Milano, a Montespertoli, si dice? Montespertoli, sì. Esatto, vicino a Firenze. Esatto, poi arriverete a Parma, a Bologna, ricordiamo il 15 marzo al mercato Sonato, poi Carpi, Forlì, insomma, siete principalmente in questa zona, sì, quindi noi sosterremo e racconteremo sempre questo progetto. Comunque questo con degli ospiti fantastici, abbiamo detto Maria Antonietta, l'ascolteremo fra poco, ma anche Anne, che è fantastica, e Colapesce arriverà in Santeria a Milano. Rodrigo D'Erasmo. E poi Erskine, sì, Giungla, e Ofelia Verano. Dorme, Verano, esatto, quindi tantissime donne. Tutte donne e tutte persone che hanno, a cui piaceva tantissimo questo progetto e che hanno deciso di partecipare. Vi aspetto tutti a Cavriago, che è nell'Emilia, è la città di Lenin, se non ve lo ricordate. Venite allo spettacolo che sarà meglio di 20 gocce di Lexotan. Ci saremo lì. E soprattutto ci saremo al mercato Sonato. Grazie Alessandro per essere stato sulle nostre frequenze, complimenti ancora per questo progetto che noi vi ricordiamo Quando tutto diventò blu. Ciao. Grazie mille. Grazie. Ciao. Fuji Comics. Fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Thank you. Eccoci qua, siamo tornati in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 FM con Fujicomics e sempre con la vostra Rachele Copparoni. E continua il nostro viaggio all'interno di questa playlist che è composta da tutti gli artisti, ma soprattutto tutte le artiste presente all'interno di questo concerto a fumetti, il nuovo progetto di Alessandro Baronciani per la presentazione di Quando tutto diventò blu. E appunto una delle protagoniste di questo concerto a fumetti è proprio Giungla, Emanuela Drey, cantautrice di base a Bologna, già voce e chitarra dei Hake Has the Jiggles ed ex bassista di His Cleansiness. Lei stessa della sua musica dice: non vorrei essere banale, ma a me interessa che passi come una cosa vera, profondamente legata a me. Quando ne parlo mi piace usare una parola che ho inventato io, che è camo pop, perché è un pop che si mimetizza tra arrangiamenti minimali e suoni distorti. E mi è così piaciuta Giungla che nel corso di questa playlist ce la riascolteremo anche un'altra volta, ma questa invece era Cold, appunto, di Giungla. E ricordiamo anche un attimo i vari contatti, perché da un po' che non dico il numero di telefono con cui potete mandarci un sms, un messaggino tramite WhatsApp o anche su Telegram, che è il 333 180 9494. Ve lo ripeto un'altra volta: 333 180 9494. Mi raccomando, fatevi sentire, mandateci dei messaggi, fateci sapere insomma come passate questo mercoledì mattina. E nel vostro tempo libero andate anche a dare una sbirciatina al nostro sito www.radiocittafujiko.it, dove potete, tra le altre mille cose, gli altri mille contenuti che vi propone la nostra radio, anche andare a leggere l'articolo della nostra redazione musicale su Alessandro Baronciani e sul suo tour, concerto, presentazione di fumetto, e anche ovviamente sentire l'intervista che è appena andata in onda adesso, così se vi siete persi qualcosa potete recuperare. Mi raccomando, seguite anche le pagine Facebook di Radio Città Fujiko e anche la pagina Instagram ovviamente, e andate a cercare anche Fujicomics sempre sia su Instagram che su Facebook, così potrete un po' vedere, sbirciare in anticipo, diciamo, avere qualche spoiler, qualche piccola anticipazione sulle puntate che di mercoledì in mercoledì si susseguiranno sempre qui su Radio Città Fujiko. E continua appunto la nostra playlist musicale tutta dedicata a questo concerto a fumetti di Quando tutto diventò blu, e un'altra delle protagoniste femminili, un'altra delle voci italiane femminili presenti in questo concerto è Maria Antonietta, pseudonimo di Letizia Cesarini, cantautrice, musicista e scrittrice italiana. Anche lei appunto sarà presente in questo concerto e forse sarà anche una delle ospiti che ci saranno qui a Bologna il 15 marzo, adesso non ricordo con certezza. In ogni caso andate a vedere su appunto il sito della radio e l'articolo dedicato a Alessandro Baronciani chi sarà gli ospiti, chi saranno le ospiti del concerto che si terrà qua al Mercato Sonato il 15 del prossimo mese. E nel frattempo ci andiamo ad ascoltare appunto Maria Antonietta con Pesci. E questa era Maria Antonietta con Pesci, ma torniamo in diretta per parlare di fumetti e fumetti connessi, diciamo, ad una notizia di cronaca che insomma è super recente. Sto parlando del coronavirus, questa tipologia di SARS, questo ceppo che fino a dicembre 2019, fino appunto a poco tempo fa, non era mai stato identificato prima, se non appunto nel dicembre 2019 nella città di Wuhan. Perché anche due fumettisti, uno malese e uno cinese, hanno parlato attraverso delle strisce di questa appunto epidemia, di questo ceppo, di questa tipologia di SARS. Partiamo da Sonny Liu, fumettista di origine malese, noto in Italia per il graphic novel L'arte di Charlie Chan Ok-Chi, tradotto nel 2017 sempre da Bao Publishing. Sonny Liu ha realizzato una serie di strisce a fumetti proprio per parlare appunto del coronavirus di Wuhan, in collaborazione con l'infettivologo il dottor Yizhu Li Yang. Queste strisce a fumetti sono composte al momento da 3 tavole e sono anche diffuse gratuitamente online dall'autore, quindi vi invito appunto di andarle a cercare, perché raccontano proprio le problematiche associate alla malattia, la raccontano un po' con ironia, quindi ridendoci su, che a volte serve anche in situazioni tragiche, e si concentra soprattutto sul corretto modo di indossare le mascherine protettive e sui reali rischi di contrarre il virus. Quindi in maniera un po' ironica, e tramite appunto i suoi disegni e le sue strisce, le sue 3 tavole, cerca comunque di parlare di un argomento così serio e di parlare soprattutto dei reali rischi effettivi di contrarre il virus. Altro scrittore fumettista, questa volta cinese, che parla appunto di coronavirus è Bia Di Cao. Devo ringraziare tra l'altro il nostro Andrea Tensili che mi ha selezionato questo articolo che viene dalla Stampa della settimana scorsa, se non mi sbaglio, in cui appunto si parla di Bia Di Cao, questo scrittore fumettista cinese che ha raccolto in un diario le storie e le confidenze delle persone rinchiuse appunto nella provincia in cui si è scatenato il coronavirus. E lui stesso dice: la gente viene rifiutata dagli ospedali che sono pieni, ormai si vive nel terrore, e testimonia appunto nei suoi disegni la vita quotidiana di chi è in quarantena. Ci sono tantissime testimonianze riportate appunto dal disegnatore Bia Di Cao, che è originario proprio di Shanghai ma è emigrato in Australia, e questo fumetto, questo diario si chiama appunto I diari di Wuhan. In tantissimi lo contattano dalle province più dove si è riscontrato più coronavirus, per appunto raccontargli le loro storie e le loro confidenze. Tra l'altro le sue vignette sono state anche bandite sul web cinese, e lui stesso dice: raccolgo tutto ciò che compare dal web cinese, ovviamente lo pubblico in forma anonima, faccio da ponte tra la Cina continentale e il resto del mondo, ho il vantaggio di risiedere all'estero e avere molti seguaci sui social, inoltre il mio nome è già noto al governo cinese e questa attività non mi metterà più in pericolo di quanto non lo sia già dichiarato proprio in questa intervista della Stampa. Quindi se potete andate insomma a recuperare, perché informarsi è sempre meglio, e soprattutto su un argomento del genere. E detto ciò, continuiamo ancora con un pochino di musica e poi torniamo sempre per parlare di novità, per parlare di Comic Con, per parlare di Oscar, di Parasite, quindi tante altre cose che riguardano i fumetti. Ma ora ci andiamo a ascoltare sempre Giungla, ma questa volta con Better Than Ever. Something's on feel changed now, but I'm still not used to it. I can feel it in my bones. I'm about to explode. I can feel it in my bones. I am better than ever, better than ever, better than ever, better than ever, better than ever, better than ever, better than ever, better than ever. How are you feeling? Nothing can touch me, whatever happens. How are you feeling? Better than ever. Nothing can touch me, whatever happens. Well, you look me in the eye, I need a sign. You look me in the eye, I need a sign. You look me in the eye, I need a sign. E questa era Giungla con Better Than Ever. E torniamo in diretta per parlare sempre di attualità, sempre di fumetti, questa volta un po' più un argomento, diciamo, leggero. Parliamo di Oscar, perché il film Parasite del regista coreano Bong Joon-ho, vincitore di ben quattro statuette e premi Oscar di quest'anno del 2020, sta per diventare un fumetto. Infatti l'editore americano Grand Central Publishing realizzerà un graphic novel a partire dagli storyboard creati dal regista stesso, appunto, da Bong Joon-ho, che aveva disegnato ogni scena con questo tratto un po' morbido e caricaturale e completato anche, appunto, con dei testi. Il fumetto si chiamerà, appunto, Parasite, a graphic novel in storyboards, e è previsto in uscita per il mercato anglofono a maggio di quest'anno, e chissà quando uscirà anche, insomma, per noi italiani, per il mercato italiano. Aspetteremo, staremo a vedere. Tra l'altro, questa sera, se tutto va bene, dovrei andare al cinema qui a Bologna a vedere Parasite, quindi magari poi mercoledì prossimo ne possiamo anche parlare meglio. E ultima novità di questa 18ª puntata di Fuji Comics, in cui vi volevo parlare del Comic Con, sempre il salone del fumetto di Napoli, che si terrà presso la mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Come dico ormai da 2 o 3 puntate, c'è tempo per parlarne, ma stanno uscendo sempre nuove informazioni riguardo questo Comic Con, e quindi io ve le racconto. La fumettista e scrittrice Anne Nocenti sarà tra gli autori internazionali ospiti, appunto, di questo Comic Con 2020. La scrittrice, tra l'altro, sarà per la prima volta un festival di fumetto qui in Italia, e l'occasione che la porta fino da noi a Napoli in Italia è la pubblicazione di Ruby Falls, disegnato dall'italiana Flavia Biondi in uscita per Bao Publishing, in cui, appunto, Flavia Biondi disegna e Anna Nocenti invece scrive le parti, appunto, scritte del fumetto. Questa Anna Nocenti, appunto, sceneggiatrice di alcuni degli episodi più memorabili della serie Daredevil per Marvel, di Catwoman, alcune cose per sempre la DC Comics, ha creato diversi personaggi Marvel, tra cui Spiral, Moio, insomma, ha fatto veramente una carriera lunga, è nota per la sua voce originale, per i dialoghi e l'impulso un po' a spingere il racconto verso nuove direzioni, e è anche nota perché ha spesso messo i suoi fumetti a confronto con le più vibranti questioni sociali, dalla corruzione del governo, i diritti degli animali, il femminismo, il rapporto con gli stupefacenti, fino anche alle politiche economiche. Quindi, insomma, attendiamo con trepidazione a Anne Nocenti, che sarà al Salone del Fumetto di Napoli, al Comic Con, che si terrà presso la mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio prossimo. E prima di andare in pubblicità e rimanere per l'ultima mezz'ora di Fuji Comics, perché ormai è quasi mezzogiorno, ci andiamo a ascoltare ancora un po' di musica, e sempre il mood è tutto blu, quindi visto che insomma le artiste presenti al concerto Fumetti di Alessandro Baronciani sono queste qua che andiamo e che siamo andate ad ascoltare fino adesso, la playlist ha preso un po' un'altra direzione, ma sempre rimanendo nel tema blu, perché un po' questa puntata è tutta un po' Blue Monday, e ci andiamo ad ascoltare Preso Blu dei Subsonica, che viene appunto dal loro album Subsonica, che è il primo album in studio del gruppo musicale italiano, registrato a Casa Sonica a Torino, e appunto il disco contiene 12 brani, tra cui anche Preso Blu, che ci andiamo ad ascoltare ora prima di andare in pubblicità. Ma rimanete sintonizzati su Radio Città Fucico, perché nell'ultima mezz'ora non vi potete perdere gli eventi della settimana. Fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Torniamo così molto suavemente in diretta dopo aver ascoltato Enya, cantante musicista irlandese che insomma ha venduto più di 80 milioni di album ed è la cantante solista irlandese ad aver riscosso più successo nel mondo, nonché il fenomeno musicale più importante del suo paese dopo gli, ovviamente gli U2 che sono immancabili ovviamente in Irlanda. Tra i numerosi premi e riconoscimenti da lei ricevuti spiccano anche 4 Grammy Awards, 6 World Music Awards, 2 lauree honoris causa e una nomination al premio Oscar e al Golden Globe, quindi insomma grande Enya. E questo era Caribbean Blue, per rimanere appunto sempre in tema un po' musicale blu. Ma siamo giunti ormai all'ultima mezz'ora, anzi l'ultimo quarto d'ora, perché ci siamo un po' allungati con le chiacchiere oggi. Siamo appunto arrivati all'ultimo quarto d'ora di Fuji Comics, sempre in diretta su Radio Città Fujiko con la vostra Rachele Copparoni, e siamo arrivati all'ultimo contenuto di queste due ore di diretta, che è appunto la nostra rubrica in cui raccogliamo tutti gli eventi della settimana da qui fino a mercoledì prossimo, tutti gli eventi insomma nelle librerie, nelle fumetterie, che appunto riguardano la presentazione di graphic novel e fumetti. E quest'oggi la voce sarà di Sofia, una delle nostre redattrici culturali, che appunto ci racconta quali sono tutti gli eventi in programma questa settimana. Me ne è sfuggito uno nella composizione di questa rubrica, perché è uscito proprio penso ieri sera, ed è un evento che si terrà alla Feltrinelli qui a Bologna, in piazza Ravegnana, insomma la Feltrinelli quella sotto le torri. Infatti Giovanni Truppi presenterà 5 alla Feltrinelli di Bologna, dove sarà anche ospite Cristina Portolano, che è una delle disegnatrici che hanno partecipato alla realizzazione del libro a fumetti 5, e dove sarà possibile ascoltare i brani dall'EP in versione acustica. Tra l'altro Giovanni Truppi è anche stato intervistato dalla nostra redazione musicale qui a Radio Città Fujiko, quindi vi invito come sempre ad andare sul nostro sito www.radiocittafujiko.it per andare a recuperare queste cose se ve le siete perse. Ora ci andiamo ad ascoltare appunto la voce della nostra Sofia, che ci racconta tutti gli eventi della settimana qui a Bologna. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, io sono Sofia Marasca e benvenuti nella rubrica degli appuntamenti settimanali nell'ambito dei fumetti e delle graphic novel. Partiamo con la presentazione del documentario animato Pino, vita accidentale di un anarchico, presso il nuovo cinema Nosadella alle ore 21.30 dal 18 al 20 febbraio. Regia di Claudia Cipriani, scritto insieme a Claudia e Silvia Pinelli e Niccolò Bolfati. La storia di Giuseppe Pinelli è narrata attraverso gli occhi delle figlie. Il punto di vista delle bambine permette di entrare gradualmente in un quadro complesso e intricato, punteggiato di verità nascoste. Per chi già sa di Pinelli, il racconto delle figlie permette di esplorare, insieme al contesto politico, anche quello emotivo, familiare e dunque più intimo. Per la prima volta non si racconta solo della sua morte, ma anche della sua vita, le sue idee, i suoi affetti. Giovedì 20 febbraio, presso la libreria Modo Info Shop, in via Mascarella 24B alle ore 19, presentazione di Menelik Magazine. Ne parlano Gadifa Akremi, autrice, Silvia De Marco, autrice e redattrice, Simone Marcelli, autore, Giovanni Tateo, direttore editoriale. In occasione dell'incontro, l'attrice Federica Marra leggerà alcuni estratti. Che cos'è Menelik? Prima di essere un magazine, è un collettivo che unisce militanti, creativi e artisti, accademici e giornalisti che condividono scopi politici e un'ambizione editoriale, con l'obiettivo di diffondere un punto di vista inclusivo che possa avversare la crescente cultura dell'odio, stimolare l'articolazione di una coscienza politica collettiva, proponendo nuove analisi critiche dei rapporti di potere, fornire piattaforme di confronto e coordinamento per l'azione politica, lanciare un'esperienza editoriale che possa raggiungere la sostenibilità economica tramite il sostegno di una comunità di lettori consapevole dell'importanza di non lasciare a capitani d'industria lo spazio culturale italiano. Sempre giovedì 20 febbraio alle ore 17.30, presso la sala incontri della biblioteca Sala Porsa, riparte Disegnando 2020. Cosa c'è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l'ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti? Per rispondere a queste domande e a tutte le altre che curiosi e appassionati possono avere, c'è Disegnando, il ciclo di incontri con gli autori, sceneggiatori o illustratori che parlano del loro mestiere. Questo giovedì sarà presente Sergio Tisselli con Sotto la costellazione del cane. Gli appuntamenti della settimana terminano qui. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Un saluto da Sofia Marasca. James Dean, for sure. You're so- so fresh to death and sick as cancer. Here's a drum clock, I grew up on it. Papa, you fit me better than my favorite sweater. And I know that leather's mean, and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those pictures before. Say you'll remember, baby, say you'll remember, baby, ooh. I will love you till the end of time. Big dreams, gangsta, said you had to leave to start your life. Blue Jeans di Lana Del Rey, pseudonimo di Elizabeth Woolridge Grant, cantautrice e anche modella statunitense. Lei ha intrapreso la sua carriera musicale nel 2005, ma ha ottenuto una certa notorietà solo dal 2008, quando firma per la piccola etichetta Five Point Record, con la quale appunto ha pubblicato l'EP Kill Kill, e le è servito proprio da apripista di un album vero e proprio che ha pubblicato poi dopo, Lana Del Rey aka Lizzy Grant, ma in realtà ha ottenuto la fama internazionale con l'album Born to Die, che contiene appunto questa canzone Blue Jeans che abbiamo appena ascoltato, per così continuare la nostra playlist dedicata al blu. Le 12:20, siamo ormai agli sgoccioli di questa 18esima puntata di Fuji Comics, quindi come sempre siamo arrivati al momento un po' dei saluti finali. Io innanzitutto ringrazio prima di tutto Fujiko Factory e Lucri e Benny, che mi hanno voluta come loro ospite speciale per appunto intervistare Alessandro Baronciani, che come vi ho detto già altre volte è uno dei miei fumettisti preferiti. Ho quasi tutti i suoi fumetti, poster a casa, insomma veramente una fangirl, e quindi sono molto contenta di aver potuto realizzare questa intervista. Ovviamente ringrazio anche Alessandro Baronciani, le faccio i complimenti per il suo progetto di concerto a fumetti. Quindi oltre a ringraziare i miei ospiti e Fujiko Factory, ringrazio anche tutti voi ascoltatori e ascoltatrici per stare sempre sintonizzati su Radio Città Fujiko. Noi come sempre ci vediamo mercoledì prossimo dalle 12:30 a 12:30, ancora non so bene di cosa parleremo, quindi rimanete sintonizzati, rimanete connessi e soprattutto seguitemi su Facebook e su Instagram, mi trovate come Fujicomics o come Rachele Copparoni, così potrete avere qualche anticipazione delle prossime, della prossima puntata di appunto mercoledì prossimo. E io vi auguro come sempre un buon pranzo e una buona giornata e mi raccomando rimanete sintonizzati su Radio Città Fujiko, perché ora a 12:30 ci sarà Iskra, il nostro GR, in cui appunto vengono raccontate tutte le notizie dall'Italia e dall'estero, e successivamente Last Minute, il contenitore di tutti gli eventi musicali, culturali e cinematografici che si terranno oggi a Bologna. Ma per concludere appieno questa puntata dedicata al blu non poteva che non mancare Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, singolo appunto del cantautore italiano Rino Gaetano, pubblicato nell'estate del 1975 dalla ET Records. La canzone, che nel formato originale dura 8 minuti e qualche secondo, che è quello che ci andremo a sentire ora, venne poi divisa in due parti, una per lato, quindi parte 1 e parte 2. La versione completa venne in seguito pubblicata nella raccolta Gianna e le altre del 1988. Il testo si basa sui parallelismi che esprimono un po' le contraddizioni della società e in mezzo a tutte queste disuguaglianze però il cielo è lo stesso per tutti e quindi rimane blu per tutti. Il brano tra l'altro fu anche inizialmente censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse, che sono: chi tira la bomba, chi nasconde la mano e chi canta baglioni e chi rompe i puntini puntini, non lo diciamo ma insomma ci siamo capiti. Quindi per concludere appunto al meglio questa playlist dedicata al blu ci andiamo a ascoltare Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Io mando un bacio virtuale così nell'aria, nell'etere, a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici e noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre su Radio Città Fujiko. Ciao ciao ciao. Portapia.